Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente, dico chiaramente per chi ha già ascoltato i nostri GR24, parleremo sia di Alitalia, viste le audizioni, la più importante mi sembra, poi ne parleremo, quella del responsabile, del rappresentante di Lufthansa, che non ha fornito enormi novità, ha detto sostanzialmente potremmo partire con un accordo commerciale. Però poi deve essere chiaro che Alitalia, visto quello che perde, deve essere ridimensionata e come estrema ratio anche ridimensionata nel perimetro occupazionale. E poi l'ILVA, perché? Perché la decisione del Tribunale del Riesame di Taranto, che ha sostanzialmente annullato la decisione del giudice Francesco Maccagnano sull'altoforno 2, e quindi ha evitato lo spegnimento dell'altoforno 2. E poco fa sono uscite alcune agenzie su questo, fonti di ArcelorMittal dicono che, riferisce l'agenzia ANSA, la decisione del Tribunale del Riesame di Taranto che ha bloccato appunto lo spegnimento dell'altoforno 2 contribuisce a spianare la strada a una ragionevole soluzione negoziata sull'ILVA. Del resto avevamo detto molte volte che in caso di conferma dello spegnimento la strada sarebbe stata tutta in salita, per non dire quasi impossibile, mentre se fosse rimasto acceso l'altoforno 2, poi vedremo perché e quali garanzie sono state date, diventava più facile trovare un accordo, perché non si andava a minare il perimetro produttivo già ridotto dell'ILVA di Taranto. Di Alitalia anche parleremo, dicevo. Partiremo con il gennaio, l'ho annunciata ieri, l'appuntamento di oggi, quindi il gennaio di fuoco, gennaio molto intenso, per dirla con la nostra astrologa, 6 pianeti in Capricorno. Beh, sono tutti a guardare il governo Conte, nel senso che sono molti dossier caldi che il governo deve fronteggiare, al di là del voto regionale del 26 gennaio in Emilia Romagna e in Calabria. C'è tra l'altro la verifica di governo che arriverà dopo le elezioni regionali, c'è il nodo autostrade, l'ILVA, beh, ne parleremo oggi, all'Italia anche parleremo oggi, e poi c'è il tema popolare di Bari. Tra l'altro della popolare di Bari torneremo a occuparci anche domani, perché ci sono nuovi elementi interessanti. Oggi su Sole 24 Ore un articolo che ricostruisce come nella City di Londra già a inizio 2019 le obbligazioni della popolare di Bari fossero guardate come, diciamo, con l'atteggiamento con cui si guardano gli esorcisti, e tra l'altro è emerso anche che vi sarebbero 300 milioni di crediti mai rilevati ma praticamente persi. Tra l'altro la popolare di Bari appunto diventa un tema anche per il governo, perché l'intervento è non superiore ai 1,5 miliardi, però dentro ci sono sia i soldi del fondo interbancario che i soldi invece dello Stato italiano. Ne parleremo. E per quello che riguarda invece i mercati finanziari, visto che alcuni di voi già mi chiedono come vanno le borse, guardate, oggi c'è un leggero recupero, anzi c'è un recupero rispetto ai cali di ieri, più 0,70% Milano, più 0,70% Francoforte, minore recupero su Parigi, più 0,11%, Londra invariata, Dow Jones meno 0,11%. Tra i titoli segnalo bene molti titoli finanziari, Azimut più 3,5%, ma anche FinecoBank più 3%, Poste Italiane più 2,70%, Banca Generali più 1,5%. Poi bene anche Diasori in più 3%, ST Microelectronics più 2,60%, Unipol non l'ho citata forse, più 2,5%, Tenaris più 2,30%, Pirelli più 2%. Di negativo oggi c'è Campari meno 1%, Telecom meno 1%, Juventus meno 0,90%. Tra gli appuntamenti del governo, certo che c'è anche il vertice sulla prescrizione che era previsto per oggi, è slittata al 9 gennaio. Oggi c'è stato un picchetto di vari esponenti politici, da Calenda a Parisi, contro la proposta del governo. E il PD, ricordiamo che dopo Natale ha presentato una proposta ad hoc per stemperare gli effetti della riforma, soprattutto per le prese di posizione di penalisti e magistrati. Più dura invece la posizione di Italia Viva. Il timore lì, poi ne parleremo, è che da un lato chi è a favore della sospensione della prescrizione dopo il primo grado dice: attenzione, i processi vanno per le lunghe, la dico male, per farmi capire, perché sostanzialmente gli avvocati puntano ad arrivare alla prescrizione, ai termini appunto per la prescrizione, e trascinano il processo per le lunghe, con un vantaggio implicito per chi è più facoltoso, perché gli avvocati costano e più lo paghi, più puoi pagarlo e più, diciamo, è alta la parcella, è rinomato lo studio, più rischi di, più hai le possibilità di arrivare alla prescrizione. Dall'altro lato però c'è chi dice: attenzione, che dopo il primo grado bloccare la prescrizione senza garanzie dei tempi della giustizia, noi abbiamo avuto dei casi di vario genere anche in questi giorni, non si può immaginare che vi sia un atto fideistico improvvisamente dicendo: beh, la giustizia improvvisamente ripartirà a funzionare. C'è un problema anche di efficienza di alcune procure, è inutile girarci attorno, non lavorano tutte nello stesso modo, e il rischio che il cittadino dopo il primo grado resti bloccato in attesa di un giudizio, non per altri motivi ma per l'organico mancante, magari delle volte anche la poca efficienza di alcuni tribunali, è un rischio molto alto. Detto questo, ne parleremo in apertura, e poi come sempre mercati, il futuro dell'ex Ilva, che è la buona notizia di oggi. Un'altra buona notizia, a mio avviso in parte, è rappresentata da quanto è uscito poco fa, ossia è stata raggiunta l'intesa per la proroga della cassa integrazione straordinaria per i 1.700 lavoratori di Mercatone 1, quelli che erano in forza presso i punti vendita di Imola. La proroga sarà dal 23 gennaio al 23 maggio. È parzialmente una buona notizia, perché chiaramente nessuno si augura di vivere in cassa integrazione, è meglio la cassa integrazione che la perdita dei posti di lavoro. Ricordo che Mercatone 1 attualmente è in amministrazione straordinaria. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Ha ragione l'ascoltatore che dice: non gli esorcisti ma gli esorcizzati. Sì, l'esorcista è quello che cura l'esorcizzato. Ha ragione, andiamo con le notizie in breve. Ieri abbiamo fatto una lunga puntata sugli scenari geopolitici che si sono aperti dopo l'uccisione di Soleimani in Iraq, ma è lo scenario che si apre non solo in Iraq, anche in Iran e nell'intera area del Golfo. Abbiamo analizzato sia il tema delle materie prime che dei fondi speculativi, che addirittura delle compagnie aeree. Oggi faccio notare che l'oro ha ripiegato a 1568 dollari l'once, ieri va toccato i massimi da aprile 2013. Il petrolio è a 62,80 dollari a New York, mentre l'oro oggettivamente era ai massimi. Il petrolio già ieri dicemmo che sì, 65 dollari a New York, 70 al Brent, sono valori alti ma non altissimi, non tale da far scattare allarmi. Faccio notare che ci sono, questa a mio avviso è abbastanza incredibile, comunque 50 persone morte e 200 ferite nella calca ai funerali di Soleimani a Kerman in Iran. No, dico perché, visto che qua ogni, giustamente si va a notare ogni uccisione, 50 morti per un funerale si commenta da sola, tant'è che le autorità iraniane hanno rinviato per ragioni di pubblica sicurezza la sepoltura del generale Soleimani nella sua città natale di Kerman. E poi gli Stati Uniti sono in massima allerta contro l'attacco dei droni, allerta anche nella base di Aviano, che è la base della US Air Force in provincia di Pordenone. Stare allerta e attenti, distruggere documenti, criptare le mail, non discutere di operazioni fuori dal lavoro. Questa è l'indicazione arrivata al team della base, sia al team civile che a quello militare. La NATO ritirerà parte del suo personale dall'Iraq, mentre la Francia non ritirerà le sue truppe, l'Italia le ha per ora messe in sicurezza ma non ha intenzione di ritirarle. L'agenzia di rating, che dai, Moody's, ieri in serata era uscita con una nota in cui si sosteneva che un prolungato conflitto avrebbe potenziali conseguenze globali, in particolare tramite gli effetti sul prezzo del petrolio. Un duraturo conflitto tra Stati Uniti e Iran causerebbe shock economici e finanziari. Sì, diciamo che potevamo arrivarci anche noi, lo dico con massimo rispetto a Moody's. Per Moody's è ovvio che se il conflitto va avanti e aumenta anche il livello di, quindi continua l'escalation, le conseguenze sul petrolio e sul commercio mondiale, a partire da quello che passa per lo stretto di Hormuz, sarebbero enormi. Comunque sì, il rapporto è firmato Messia della Palis, mi scrive un ascoltatore, non lo so se fosse un lontano parente. Stati Uniti, il deficit commerciale a novembre è calato dell'8% a 43 miliardi, un dato superiore alle attese degli analisti ed è ai minimi dal 2016. C'è stato un balzo delle esportazioni e una flessione ai minimi dal 2017 delle importazioni. Il deficit, quindi il disavanzo commerciale, potrebbe chiudere per la prima volta in calo dal 2013. Nel senso che l'America continua a importare ben più di quanto esporta, però il deficit sarebbe a 563 miliardi rispetto ai 566 del 2018. E in particolare è calato il deficit commerciale, questo è l'effetto dei dazi e delle sanzioni degli Stati Uniti in confronti della Cina, è calato di 2,2 miliardi a 25,6 miliardi a novembre. Le esportazioni americane verso la Cina sono salite di 1 miliardo e 400 milioni, le importazioni sono scese per il sesto mese consecutivo. Restando negli Stati Uniti, ma ci spostiamo a Wall Street, perché il valore di Tesla a Wall Street in borsa ha superato per la prima volta gli 80 miliardi di dollari, ma la cosa più impressionante a mio avviso è che 80 miliardi sono la somma della capitalizzazione di borsa di due giganti come Ford e General Motors. Quindi il colosso di auto elettriche creato da Elon Musk vale il 59% più di General Motors e ben più di Ford. General Motors capitalizza 51 miliardi, Ford 33 miliardi e appunto Tesla 80 miliardi. Una vicenda che più che di carattere, oddio, nasce come vicenda di carattere economico, ma ormai potrebbe essere un film, una spy story. Mi riferisco alla rocambolesca fuga dell'ex numero uno di Renault Nissan, Carlos Ghosn, che è riuscito a scappare dai domiciliari di Tokyo, l'avete letto forse su molti giornali, era agli arresti domiciliari a Tokyo ed è risbucato passando per la Turchia e a Beirut, di cui lui è cittadino anche libanese, a diverse cittadinanze. Allora, il pubblico ministero di Tokyo ha spiccato un mandato di arresto per la moglie di Carlos Ghosn, Carol, che ha anche lei a cittadinanza libanese. Secondo alcune ricostruzioni sarebbe stata proprio lei a organizzare la fuga del marito, che è fuggito appunto in Libano con un jet privato e ha raggiunto la moglie lo scorso lunedì. Faccio notare che a Beirut domani Carlos Ghosn terrà una conferenza stampa, ha detto che ha già fatto trapelare che c'era un complotto ordito contro di lui. Ho una decisione che ha fatto, che riguarda un tema molto discusso, anche molto utilizzato per la campagna elettorale in questo paese. Mi riferisco alla dimensione delle vongole accettata dall'Unione Europea. Il tema è serio, in realtà ce ne siamo occupati anche noi più volte. Nasce da una misura minima per pescare le vongole decisa dall'Unione Europea, che però non teneva conto delle dimensioni più piccole delle vongole, diciamo, del Mar Adriatico in primis, creando un casino totale, perché avrebbe reso, avrebbe impedito di pescare vongole di taglia inferiore ai 22 mm, la nostra più o meno è sui 22 mm, mentre il tetto minimo imposto dall'Unione Europea era di 25 mm. Allora, la buona notizia è che l'Unione Europea ha dato via libera alla proroga che consentirà solo all'Italia di pescare per tutto il 2020 la vongola di taglia piccola, conosciuta come lupino. Non so se sia la stessa, adesso non sono un esperto, che in altre regioni si chiamano arselle, però è sicuramente la vongola di taglia piccola. E chiaramente soddisfatta Fedagripesca e Confcooperative. Era una querela commerciale tra le imprese spagnole e quelle italiane, perché Spagna e Italia sono i due principali produttori europei di vongole. Le evidenze scientifiche hanno fatto notare però che, appunto, avendo dimensioni più piccole, quella italiana non poteva essere messo il limite dei 25 mm. Viene così salvata la produzione nazionale, che è di 20.000 tonnellate l'anno, che sono equivalenti a 60 milioni di euro, 140 milioni considerando l'intera filiera. Il problema è che, lo dico da questo punto di vista, se tu avessi, ce l'hanno spiegato i nostri ospiti quando l'abbiamo avuto in trasmissione, avessi dovuto aspettare il raggiungimento delle dimensioni che voleva l'Europa, minimo 25 mm, molte vongole rischiavano di morire per anossia o andavano in sofferenza. Ora, non voglio trasformare un programma in un programma ittico, però poi c'era un ritorno economico e soprattutto, qualcuno mi scrive: esatto, le arselle sono le telline, il lupinus e Venus gallina. Ho un pubblico di esperti di vongole, questo mi fa solo che piacere. Altri mi dicono: guardi che è migliore anche in termini di gusto. Non ho, adesso mi scrivono da Livorno: guardi che vongole e lupini sono un'altra cosa. Ora, ragazzi, non scateniamo dibattito. La cosa importante è che possiamo pescare le nostre vongole, posso dirla male. E sono d'accordo che siano come gusto migliori anche di quelle più grosse, come sempre. Comunque, dai. Ancora due notizie per quello che riguarda l'Unione Europea. 19, l'inflazione è salita leggermente a dicembre all'1,3% contro l'1% di novembre. Per quello che riguarda il nostro spread, c'è un leggero rialzo, siamo a 164 punti contro i 162 di ieri. Il BTP a 10 anni rende l'1,36%. Tornando però all'inflazione, guardando sull'intero anno, l'Istat oggi fa sapere che nel 2019 l'inflazione ha fatto più 0,6%, cioè la metà di quanto, che è già poco, fece nel 2018, l'1,2%. Questo mostra la debolezza anche dei consumi interni nel corso dell'intero anno, e tra l'altro il fatto che l'inflazione sia leggermente risalita a dicembre, più 0,5%, è dovuto a quella che si chiama inflazione importata, cioè non un aumento dei consumi interni che spingono un po' i prezzi, ma il fatto che è aumentato il prezzo dei carburanti. Sempre a dicembre il cosiddetto carrello della spesa, cioè i prezzi dei beni alimentari a maggior utilizzo, beni per la casa a maggior utilizzo, dai beni alimentari ai beni per la persona, per le cure personali, ha segnato un aumento dello 0,8% contro uno 0,5% precedente. Poi l'Istat oggi ci fornisce altri dati: il deficit nel terzo trimestre è migliorato rispetto ai 9 mesi precedenti all'1,8%, la pressione fiscale nel terzo trimestre è salita al 40,3%, o meglio è calata di 0,1 sul trimestre precedente, però se si guarda i primi 9 mesi dell'anno la pressione fiscale cumulata è del 39,2% del PIL, quindi in aumento dello 0,3% rispetto ai primi 9 mesi del 2018. Buone notizie invece arrivano dal calo dello spread che si è registrato in questi mesi, perché nel terzo trimestre 2019 gli interessi pagati sul nostro debito sono scesi a 15 miliardi, quindi 200 milioni contro i 16 miliardi, 86 milioni, 900 milioni in meno. Ultimi due dati diffusi oggi dall'Istat: il reddito delle famiglie sale ancora nel terzo trimestre, ma perde vigore, comunque insomma è a un più 0,3% rispetto al trimestre precedente, e l'Istat fa capire che il reddito sale grazie soprattutto alla frenata dell'inflazione. Il problema, se vogliamo dirlo in questo modo, è che la spesa delle famiglie sale più del reddito. Infatti è cresciuta la riduzione, la propensione dei risparmi pari all'8,9%, e quindi è calata, quindi aumenta leggermente la spesa delle famiglie ed è cresciuta più dell'aumento del reddito. Un'ultima buona notizia prima di andare sul meteo, pubblicità e partire con l'appuntamento che riguarda il gennaio tutto in salita del governo. Mi riferisco a Venezia, al MOSE. Allora, oggi il sindaco di Venezia Brugnaro ha chiarito che i danni dell'acqua alta di novembre sono pari a 320 milioni, ma ha anche annunciato che entro 6 mesi il MOSE sarà operativo per le emergenze. Andiamo sul meteo. Focus Economia. Down. 17:33, apprezzo l'ironia di chi mi ha scritto: le è andata di traverso un'arsella. No, non mangio le arselle durante la diretta, e soprattutto non le mangerei mai a quest'ora. Probabilmente un po' di inquinamento, visto i livelli delle polveri sottili anche a Milano, non essere esattamente accettabili. Comunque andiamo con le cose più serie, e mi riferisco al gennaio del governo Conte. Per stare solo sui temi economici, poi parleremo di ILVA e Alitalia, che sono due dei dossier aperti, poi ci sono tutte le crisi aziendali, c'è la Banca Popolare di Bari, su quota 100 e reddito di cittadinanza non mi sembra che si arriverà al cosiddetto re dell'azione, cioè la resa dei conti nel mese di gennaio. Mi sembra che invece, da un lato, lo slittamento da oggi al 9 gennaio del vertice sulla prescrizione, e dall'altro il voto regionale siano gli appuntamenti principali. C'è poi però quanto riportava anche il Sole 24 Ore oggi, e cioè gli obiettivi da centrare, cioè bisogna riformare l'IRPEF e irrobustire il taglio al cuneo fiscale, questo stando alle dichiarazioni del governo. Disinnescare poi le famose clausole di salvaguardia, che si ripresentano anche quest'anno, valgono 20 miliardi, altrimenti scatta l'aumento dell'IVA o delle accise sui carburanti, e poi fare una riforma delle pensioni che eviti lo scalone post quota 100, perché quota 100 poi si esaurisce, era già previsto. Allora, poi, se ho ben capito, c'è l'ipotesi che vi possano essere un budget, dei soldi, delle risorse di partenza di circa 15 miliardi. Chiedo se è corretto a chi ne ha scritto anche oggi su Sole 24 Ore, in parte. Gianni Trovati, buon anno, bentornato e grazie per essere con noi. Buon anno a voi e agli ascoltatori. Dunque, io continuo a usare l'esempio della nostra astrologa, che come ogni anno è venuta, ci ha spiegato che a gennaio ci sono 6 pianeti, caro Gianni, nel Capricorno, non capitava dal 1581, che vuol dire, insomma, pianeti amari per il governo, periodo difficile per il governo. Cosa vuol dire che c'è un budget di partenza di circa 15 miliardi che potrebbe arrivare da 4 dossier, cioè rimodulazione dell'IVA, per 4-5 miliardi, spending review per 2-3 miliardi e un po' di risparmi da quota 100, 2 miliardi e 600 milioni e un riordino delle agevolazioni fiscali da 4-5 miliardi. A cosa serve questo budget di partenza? Serve a cercare di far quadrare i conti di una manovra, quella dell'autunno prossimo, che si presenterà complicata da alcune delle questioni che citavi tu. Un pezzo di questo lavoro tecnico era stato fatto in verità già per questa manovra, quella che è appena andata in Gazzetta Ufficiale, per esempio sulla rimodulazione delle aliquote IVA per alcuni beni, ma poi non è entrato in manovra perché non c'era l'accordo fra i soci della maggioranza. Bisogna vedere se nella prossima manovra questo accordo e prima ancora questa maggioranza ci sarà e sarà in campo. Perché oltre ai sei pianeti in Capricorno, dico bene? Sì, Capricorno. Che non succedeva dal 1581, ci sono anche cinque decreti in Parlamento. Questo invece è successo anche negli anni passati. È successo anche negli anni passati, però insomma sono tanti e ognuno di loro ha al suo interno un tema molto divisivo per la maggioranza. Il milleproroghe dentro la questione delle concessioni autostradali, Italia Viva ha detto che voterà contro. C'è il decreto su Popolare di Bari, venerdì prossimo Gualtieri, il ministro dell'economia, sarà in audizione in Parlamento proprio per illustrare quelli che sono i progetti del governo, che al momento sono tanti, forse troppi, perché accanto all'intervento, diciamo così, salvataggio della POP Bari, c'è l'idea, soprattutto dei 5 Stelle, della creazione di una banca pubblica di investimenti per il Sud, che però è un progetto diverso rispetto a quello, diciamo così, che riguarda strettamente il salvataggio della Popolare di Bari. C'è il decreto all'Italia su cui lo stallo è continuo e insomma in ogni decreto, in ogni provvedimento ci sono temi su cui all'interno della maggioranza ci sono pensieri opposti e ognuno, no, tutte le mattine sui giornali va a dire la propria in competizione interna con l'alleato di governo. Ecco, scusami, sì. Vai, non la prego. No, all'interno di questo quadro si apprezza, una puntata di qualche giorno fa parlavamo della tecnica del rinvio, no? E oggi certo, la tecnica del rinvio ha avuto un'altra manifestazione con il rinvio appunto del vertice sulla prescrizione, oggetto di altro decreto in Parlamento, ma soprattutto è la verifica sul cronoprogramma, la verifica che era in agenda per oggi, un po' su tutti i temi, no? Per rilanciare l'agenda di governo, era stata straannunciata dallo stesso Premier, dagli stessi ministri. Beh, la verifica di gennaio slitta a febbraio, perché prima c'è da vedere come finirà il voto in Emilia Romagna e Calabria. Sì, ho dimenticato un altro dossier fondamentale, perché è chiaro che il voto, forse dal punto di vista della verifica politica, è principale. Poi c'è quella che è slittata, perché si doveva parlare anche di questo oggi, il tema della prescrizione. Esatto. Ma c'è il nodo anche la parte Ilva e all'Italia, adesso ne parliamo, ma poi c'è il nodo autostrade. Perché il decreto milleproroghe, l'abbiamo spiegato molte volte, ha introdotto una misura che di fatto consente, in caso di revoca della concessione, allo Stato e ai contribuenti di pagare molto meno, 7 miliardi invece che 23. Continuiamo a leggere però di trattative, non sotto banco perché sembra quasi brutto, ma insomma di trattative non ufficiali con Aspi. Ritieni che anche quello, al di là delle elezioni e della prescrizione, che però non sono di carattere necessariamente economico, sia l'altro grande nodo? Sì, su due piani, uno politico e uno operativo. Quello politico perché Italia Viva ha già detto che quella roba lì non la vota e quindi sostanzialmente si creerebbe una spaccatura all'interno della maggioranza, ma all'interno anche dei 5 Stelle, e poi lo sa bene il Premier Conte, c'è anche una incognita operativa, perché è vero che la norma del milleproroghe serve, diciamo così, a cercare di blindare un percorso verso la revoca della concessione senza pagare un pegno così rilevante, ma c'è da dire che lo Stato non è onnipotente, cioè non si può, o comunque non è automatico che si possa cambiare ex post per legge delle condizioni contrattuali che erano state controfirmate dallo Stato stesso. Questo è un principio che vale al di là del caso specifico di Autostrade per l'Italia, perché se cade questo principio, cade uno dei pilastri, diciamo così, della convivenza dell'operatività economica. Sì, che è quello che l'elemento forte di Italia Viva, che dice attenzione, in questo modo poi nessuno investirà più in Italia, perché se poi l'Italia dà il messaggio che può cambiare le carte in regola. Da quello che ho capito io, adesso io qui voglio essere molto realistico, un conto sono le indagini della magistratura che deve accertare le responsabilità su 43 morti per il ponte Morandi, su quello che è successo poi sulle autostrade genovesi, o meglio liguri, ultimo caso la 26 e la tragedia per pochissimo sventata quando ti crollano dei pezzi di una galleria, e questo è inaccettabile e deve indagare la magistratura. Poi lo Stato ha il dovere, oltre che il diritto, di chiedere a chi ha in concessione la rete che cosa avete fatto e che cosa non avete fatto. L'unica cosa che mi interessa da cittadino è che non ci vada a rimettere io, nel senso che non ci vada a rimettere i conti pubblici, perché se e che non cambia il percorso e l'iter che faranno le indagini della magistratura nel rilevare poi le responsabilità anche di carattere penale, però poi lo Stato deve essere deve fare tutelare i suoi interessi, non è solo il principio, perché se io vedo che riesco a ottenere, intanto ci sono stati bloccati gli aumenti dei pedaggi autostradali, riesco a ottenere dei soldi, dei risarcimenti, delle garanzie e non metto a rischio i conti pubblici, valutatela bene questa cosa, lo dico perché non vorrei che si passasse per uno slogan politico poi a anni di controversie legali in cui gli unici a perdere sono i conti dello Stato italiano. Tutto qua. Andiamo avanti, dicevo, nodo autostradale, Gianni, e poi c'è tutto il tema di quota 100 e reddito di cittadinanza. Mi sembra un po' più in là quanto a verifica. È un po' più in là perché tutti i temi che abbiamo detto finora hanno una scadenza precisa, perché tutti questi decreti vanno convertiti entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore, quindi anche la molto ben sperimentata tecnica del rinvio che il governo sta portando avanti un po' su tutti i fronti trova un limite naturale, mentre sul reddito di cittadinanza e quota 100 c'è più tempo, se ne parlerà nel corso dell'anno, perché c'è da trovare i soldi per cominciare a far quadrare i conti della prossima manovra. Paretta, che è sottosegretario all'economia, virtuosamente si sta sgolando in questi giorni con i suoi colleghi di governo per dire cominciamo subito a parlarne, non arriviamo in autunno, se no si fa come quest'anno, no? Che si fa. Sì, ma mentre quest'anno era giustificata dal fatto che il governo è nato a fine agosto all'improvviso, quest'autunno non sarebbe più giustificabile. Lo dico. Appunto, perché poi i 20 miliardi di IVA che citavi tu, se non c'è una programmazione e un accordo prima sulle contromisure, si finisce come al solito, che si va in Europa, si chiede un po' di deficit. Quel deficit lì serve a bloccare gli aumenti IVA e per il resto della politica economica non rimane sostanzialmente nulla. O le briciole. Ecco, Baretta sta provando, diciamo così, a sollecitare i suoi, ma appunto l'agenda che abbiamo appena finito di elencare dice che ogni giorno ha la sua pena, ogni giorno ha la sua emergenza, e vedo complicato un chiarimento sul reddito di cittadinanza e quota 100 all'interno del governo. Sicuramente non tra gennaio e febbraio. Dunque, voglio rispondere a alcuni ascoltatori che mi dicono ma insomma è possibile che tutta la politica e anche voi la seguiate si occupino solo delle elezioni regionali in Emilia Romagna quando per quanto importante sia la regione, sintetizzo un po' di messaggi, l'economia non pensa alle elezioni dell'Emilia Romagna e della Calabria, aggiungo io. No, guardi, per carità l'economia non ci pensa, però se parliamo dei nodi politici e degli elementi che possono, questo è l'appuntamento assieme alla prescrizione più delicato per il governo. Poi c'è anche chi ha detto e ha sostenuto, a mio avviso con qualche fondamento, che paradossalmente proprio se dovesse esservi una grossa sconfitta del governo in Emilia Romagna, cioè dei partiti che reggono il governo in Emilia Romagna, il governo allungherebbe la sua vita perché nessuno andrebbe ad elezioni con una debolezza così forte. Non lo so, in questo caso sono ipotesi possibili, ma è indubbio l'unica certezza che quello è un appuntamento, un passaggio fondamentale assieme alla prescrizione, assieme a due passaggi, Ilva e Alitalia, di cui ci occuperemo dopo il traffico. Grazie intanto a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Focus Economia. E prima però di arrivare, allora devo dare qualche risposta su Atlantide, ma è possibile fare un ragionamento non ideologico? Ho detto, qualcuno mi dice adesso lei sta difendendo chi ha truffato lo Stato con... Guarda, abbiamo fatto intere puntate su Atlantia e non mi sembra così morbide ricordando qual è stato l'andamento degli investimenti, soprattutto negli ultimi anni scesi sotto, ben al di sotto di quanto promesso. Ho detto solo che le indagini della magistratura andano avanti e mi sembrano pesantucce anche sui vertici di Aspi, che per quello che riguarda la trattativa dello Stato con i concessionari a partire da Autostrade per l'Italia, da cittadino che paga le tasse, a me interessa in primis che, visto che non si può sostituire lo Stato alla magistratura, che non si vadano a rimettere soldi pubblici, cioè che questa trattativa poi non porti a una penale che dobbiamo pagare tutti e dare altri soldi a Autostrade per l'Italia e ai controllanti che sono i Benetton, che non sono gli unici azionisti però. E con questo rispondo invece a chi mi dice: ma lei si rende conto del danno fatto al titolo Autostrade per l'Italia in borsa? Sì, però adesso vediamo di capirci. Quando uno compra, è piccoli azionisti, bene, però quando uno compra un titolo, questo vale per tutti i titoli di borsa, si accolla anche un rischio, sta cosa che se il titolo va giù è un danno per gli azionisti. E certo, se va su è un vantaggio, se va giù è un danno. Se lei avesse voluto non rischiare nulla, se comprava un'obbligazione che rende praticamente niente, ma è il motivo per cui a bassi rendimenti, bassi rischi, alti rendimenti, alti rischi. Adesso non è che posso anche preoccuparmi degli azionisti di Autostrade per l'Italia se scoppia un caso del genere. Ricordo che ci sono 43 morti e tutto un insieme di problemi sulla rete viaria. No, adesso ho solo detto che la trattativa vorrei che fosse il più pragmatico possibile, e cioè che non vi fosse nessun vantaggio per i concessionari laddove viene rilevato che sono stati inadempienti, senza sostituirsi la magistratura sugli elementi penali e senza che lo Stato rischi poi di pagare enormi penali. Tutto qua, non mi sembrava un ragionamento così. Sono d'accordo che la cosa più importante è che non crolli un viadotto o non salti un pilone, ci mancherebbe, ma in questo voglio dire le responsabilità del gestore sono chiare ed è per questo che si va a rinegoziare la concessione. Ho detto solo, speriamo che venga rinegoziata nell'interesse del dello Stato, dei conti pubblici, e non paradossalmente poi si arrivi a una soluzione pasticciata che alla fine porta a un risarcimento a Autostrade per l'Italia e a tutti i suoi azionisti, di cui non ho, mi dispiace per gli azionisti di Autostrade per l'Italia come mi dispiace per altri azionisti, però insomma. No, poi qualcuno dovrà pagare in questo paese per la gestione della rete autostradale laddove sta messa sotto osservazione. Dai. Stefania Arcudi, Radio Corri, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Anche perché gli azionisti di Autostrade, come altri azionisti, in questi anni hanno goduto anche dei dividendi. Quindi, ripeto, è tipico quando investi in un'azione, c'è un elemento di rischio. Se scoppia uno scandalo per un titolo quotato, è ovvio che il titolo va giù. È ovvio che l'azionista che l'ha comprato ne risente. Comunque andiamo avanti con la borsa. Per quello che riguarda oggi le borse, c'è un recupero: più 0,60% Milano, più 0,70% Francoforte, invariata Parigi, Londra invariata anch'essa. Per quello che riguarda lo spread, abbiamo detto sostanzialmente è tornato sui livelli di ieri, hanno recuperato molti titoli penalizzati. E cito quelli migliori: Azimut più 4, Diasorin più 3,1 come Fineco Bank, il 2,60 lo guadagna Poste, il 2,50 Steam Microelectronics, il 2,30 Unipol, il 2% Tenaris Atlantia, l'1,5 Generali e Pirelli. Stefania, partiamo sia dal risparmio gestito che invece da Diasorin, che opera nel settore biomedicale. Sì, sono state, come dicevi poco fa, le migliori di oggi sul FTSE MIB, in particolare appunto il risparmio gestito, Azimut più 3,9%, Fineco Bank più 3,1%, a dare il là è il proprio Fineco che sull'onda di indicazioni positive che sono state date dall'amministratore delegato Alessandro Foti, che ha parlato in un'intervista proprio al Sole 24 Ore di un un 2020 in ulteriore crescita, e ha sottolineato che non avere più alle spalle un azionista forte come Unicredit, che ricordiamo è uscita, non è un problema, anzi potrà essere un'opportunità. Quindi i mercati per il momento ci credono, il titolo ha guadagnato molto, ha trascinato anche la rivale Azimut. Per quanto riguarda Diasorin, in generale oggi è andato bene tutto il comparto farmaceutico, biomedicale, delle biotecnologie, eccetera, è stato tra i migliori in tutta Europa in una giornata appunto comunque sostanzialmente positiva. Diasorin peraltro veniva da un dicembre difficile e un inizio d'anno altrettanto difficile, nelle prime due sedute aveva perso quasi il 2%, quindi questo ha dato ulteriore slancio al titolo. Ancora Atlantia, visto che ne parlavamo, è salita oggi in borsa, vado a recuperare il valore del titolo, più 2%, ma come mai? Nel senso che resta un dossier aperto, si attende il piano industriale di Autostrade per l'Italia e le novità sulle concessioni, mi sembra che il mercato scommette novità positive? Sì, infatti il tema delle concessioni è quello che nelle sedute precedenti aveva penalizzato particolarmente il titolo, che è sempre stato tra i peggiori sul listino principale. Oggi ci sono indiscrezioni sul fatto che il vertice che dovrà decidere sulla revoca appunto delle concessioni slitterà apposta appunto per dare più tempo al Premier Conte di negoziare fra le parti, e appunto questo per il momento dà un po' di respiro al titolo, e in attesa di capire quali saranno gli sviluppi. Dunque, andiamo avanti con i titoli. Beh, Telecom risente delle inchieste in Brasile, vi sarebbe un'inchiesta che coinvolgerebbe Telecom una campagna di corruzione, e perde lo 0,90%, Juventus -1,1%, Campari -1,20%. Andando sui migliori e peggiori invece, Stefania, Mondo TV France +31,60%, Titannet +14%, EMS +13,5%, Serie Industria +11,40%, e poi c'è Brunello Cucinelli +7,5%. La cito perché oggi sono usciti i dati sul gruppo Coppa della Moda, +7%, è arrivato al 7% il titolo e adesso ha fatto appunto 7,55%. Perché? Perché le stime, le vendite sul 2019 sono andate bene, ricavi netti a 607 milioni, +10%, e con un aumento nei mercati internazionali dell'11,5%, e poi buone anche le prospettive sul 2020. Andando sui peggiori invece, Dominion Hosting -9,90%, Confinvest -9,70%, Società Editoriale Il Fatto Quotidiano -4,60%, Prismi -4,30%. Grazie anche alla collega di Radio Corriere Sole 24 Ore, Stefania Arcuri. Adesso invece ci trasferiamo a Taranto, perché allora, dire che sono arrivate buone notizie sull'Ilva forse è eccessivo. È arrivata sicuramente, non è arrivata una brutta notizia, perché comunque uno la possa pensare, il Tribunale del Riesame di Taranto ha accolto il ricorso presentato dai commissari dell'Ilva, non da ArcelorMittal, contro lo spegnimento dell'altoforno 2 deciso dal giudice Francesco Maccagnano. Tra l'altro è interessante perché allo stesso Maccagnano erano state richieste la possibilità di non spegnere, articolando il motivo per cui non andava spento l'altoforno 2, sequestrato nel giugno del 2015 dopo l'incidente che è costato la vita all'operaio Alessandro Morricella, investito da una fiammata mista a ghisa incandescente mentre misurava la temperatura di colata dell'altoforno. L'impianto è ritenuto fondamentale per il ciclo produttivo e in caso di spegnimento praticamente avrebbe reso molto molto difficile la trattativa tra governo e ArcelorMittal. Faccio notare una cosa però, senza polemica, ma con i tempi che ha l'industria, una tragedia come quella della morte di un operaio è avvenuta nel giugno del 2015. Ora, È inimmaginabile che si possa aspettare fino a fine del 2019 per sapere se un altoforno va spento o no. Comunque, colleghiamoci con Taranto. Eccolo lì, qualcuno mi dice adesso lei sta attaccando la magistratura per tirare la volata sulla prescrizione. Guarda, non ha capito una mazza. Dico solo che 4 anni per decidere su un incidente che è avvenuto nel giugno del 2015 sono tempi inimmaginabili. Pensate cos'era l'Italia nel 2015 e cos'è l'Ilva e cos'è adesso. Comunque è in collegamento con noi da Taranto Domenico Palmiotti. Domenico, buonasera. Buonasera, buonasera Sebastiano. C'è il GR24 adesso, poi vorrei capire intanto il motivo per cui è stato appunto accolto il ricorso contro lo spegnimento, che cosa aveva deciso Maccagnano, che cosa aveva detto l'azienda come commissari. E poi invece adesso le prospettive nella trattativa tra governo e ArcelorMittal, 349-238-6666 dopo il GR24. Ciao, questa è la segreteria di Paolo. Al momento non è raggiungibile. Si sta rilassando con i sedili Advanced Comfort di SUV Citroen C5 Aircross. Ti preghiamo di non lasciare nessun messaggio. Grazie. Disconnettiti più spesso. SUV Citroën C5 Aircross. A gennaio tuo da 19.950 euro. Info su citroen.it. Citroën. Fuori ci sono 0 gradi e tu vuoi il climatizzatore. E quando se no? Fino al 13 febbraio, da 1 euro, se acquistiamo un climatizzatore delle migliori marche, ci portiamo a casa in più l'asciugatrice Bosch. L'asciugatrice Bosch? La sognavo da un bel po'. Sì, e con il tasso zero pagheremo da giugno, quando fuori ci saranno 30 gradi. Tanetag 0%, 20 rate, salva approvazione della finanziaria. Uni euro. Batte. Forte. Sempre. Ultima ora, il gatto tigro al Giro d'Italia. Ma no, basta fake news! Monge non racconta storie. Le nostre crocchette sono 100% made in Italy, con carne fresca per un'appetibilità straordinaria. Monge, il pet food che parla chiaro. Acquisto o noleggio, acquisto o noleggio, acquisto o noleggio, acquisto o noleggio, acquisto o noleggio, acquisto o noleggio. Perché scegliere quando puoi averli tutti e due? Nasce Noleggio Chiaro, il primo noleggio a lungo termine di Fiat Chrysler Automobiles che ti permette di scegliere oggi l'auto che desideri e ti dà la possibilità di acquistarla dopo 3 anni a un prezzo garantito. Ad esempio, Lancia Y è tua da 179 euro al mese con RCA, furto incendio, copertura danni e manutenzione inclusi nel canone. Offerta valida fino al 31 gennaio e soggetta ad approvazione Lisis. Durata del noleggio 36 mesi, anticipo 4.900 euro. Info su noleggiochiarofca.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso ci occupiamo di Ilva, visto che abbiamo, come ricordavo, Domenico Palmiotti in collegamento da Taranto. Una risposta brevissima ancora su Autostrade per l'Italia, Atlantia, che non è oggetto oggi di approfondimento. Guardate, è innegabile che dopo quello che è successo dal Ponte Morandi, ma non solo, le concessioni vadano riviste. Ho solo detto che devono essere riviste, o che mi auguro che vengano riviste, nell'interesse dello Stato, cioè non facendo pagare i contribuenti, quindi le casse dello Stato, quindi trovando una soluzione che permetta l'esborso minore per lo Stato italiano e non solo una bandiera ideologica che poi, a cui poi seguirebbero decine di ricorsi, anni e anni nell'incertezza, ma che, voglio dire, la gestione degli investimenti nella rete autostradale italiana a partire da Autostrade per l'Italia non sia stata degna di un paese, degna dei pedaggi che paghiamo, ma mi sembra fuori discussione, ma non penso che vi sia nessuno che osi sostenere il contrario, dai. Allora, Domenico Palmiotti, intanto le motivazioni per cui il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso presentato dai commissari dell'Ilva annullando la decisione del giudice Francesco Maccagnano che aveva respinto la richiesta di proroga dell'impianto e quindi l'altofono 2 resta aperto, con la conseguenza che non entreranno in cassa integrazione 3.500 lavoratori. In realtà erano abbastanza di meno, perché 1.270 sono già in cassa integrazione dal il 30 dicembre, è stata prorogata di altre 13 settimane. Le motivazioni? Allora, le motivazioni che sono che il Tribunale di riesame ha giudicato praticamente valido il piano presentato da Ilva in amministrazione straordinaria per la ulteriore messa a norma dell'impianto. In sostanza il Tribunale di riesame ha detto che questa tempistica è congrua, è stata valutata da un punto di vista tecnico e serve appunto il tempo necessario per mettere a norma questo altoforno. Il riesame è anche abbastanza critico verso Cagnano e osserva che se l'altoforno venisse fermato si avrebbe l'effetto di bloccare, spegnere l'unico altoforno dei tre attualmente funzionanti sui quali negli ultimi tempi si sono concentrati sforzi, progetti e investimenti per aumentarlo, per aumentarne appunto i livelli di sicurezza. Quindi il progetto è ritenuto valido e il Tribunale del Riesame ha accettato anche la tempistica che Ilva stessa aveva formulato, cioè una tempistica per fasi: 9 mesi per installare il primo gruppo di macchine, 10 mesi per installare le altre 2 macchine e infine 14 mesi per completare con altre 2 macchine ancora, se in tutto, quindi tutto l'investimento. Prima di queste 6 macchine che richiedono un investimento di circa 10 milioni di euro, il Tribunale del Riesame stabilisce che Ilva dovrà far predisporre dei dispositivi di protezione individuale entro 6 settimane dal 19 novembre. Dispositivi di protezione individuale che vengono definiti attivi. Che cosa si intende di attivi? Per attivi? Sono dispositivi che avranno degli accorgimenti acustici e luminosi per segnalare appunto agli operatori del campo di colata che ci sono anomalie e pericoli eventuali, e quindi attraverso queste segnalazioni acustiche e luminose gli addetti vengono invitati ad allontanarsi dal campo di colata. Poi fa un lungo, come dire, esame di quanto ha detto appunto Maccagnano nel provvedimento con cui il 17 dicembre aveva negato a Ilva la proroga per i lavori all'impianto, e osserva sulla base di una serie di analisi di rischio e di dati certificati che i rischi che sono stati evocati, i vecchi rischi ad oggi non hanno più fondamento, non sono più attuali, perché nel frattempo, dal 2015 ad oggi, l'altoforno 2 è stato sottoposto ad una serie di migliorie. E d'altra parte Ilva ha sostenuto nella sua difesa che il rischio dell'impianto era stato già abbattuto con i lavori fatti e che gli ulteriori lavori servivano appunto ad abbatterlo ulteriormente, a renderlo ancora più sicuro. Dove è nato il conflitto? Che il giudice Maccagnano affermava che dare questa proroga a Ilva significava compromettere la sicurezza dei lavoratori, e diceva appunto Maccagnano che Ilva di proroghe ne aveva avute già abbastanza e che queste prescrizioni risalivano al 2015, quando ci fu l'incidente mortale a Morricella. Il Tribunale del Riesame invece ha ribaltato il provvedimento di Maccagnano e ha detto che per fare questi lavori non serve un tempo breve o un tempo, come dire, che era stato quello inizialmente previsto, ma serve il tempo tecnico necessario, che è appunto quello indicato da Ilva e anche validato e approvato dal custode giudiziario. Domenico, da un lato ti giro anche alcune osservazioni degli ascoltatori. Insomma, la sconfessione per il giudice Maccagnano è chiara, e lì poi non mi permetterei mai di valutare le competenze, però ricordo quanto abbiamo detto anche in finale di 2019. Le procure devono anche dotarsi di su temi di carattere economico e finanziario di pool specializzati. Uso l'esempio, ma solo perché lo conosco bene, della Procura di Milano, che ha proprio un insieme a un pool di persone che si occupano dei reati finanziari, perché sono reati che necessitano di una grossa competenza e approfondimento. Così come quando si parla di reati di carattere industriale occorre avere anche un minimo di competenza e non farsela una volta che si ha il fascicolo. Dall'altro lato però molti ascoltatori mi dicono: mi scusi, ma se l'incidente che costò la morte appunto all'operaio Alessandro Morricelli è avvenuto in giugno 2015, perché da giugno 2015 adesso non è stato messo in sicurezza l'altofono 2. Quando è accaduto l'incidente, Ilva presentò un piano alla procura con una serie di lavori. Per la verità furono lavori ordinati dalla procura più che presentati da Ilva. Ilva poi si è giustificata dicendo che i lavori che in quel momento si potevano realizzare tecnicamente sono stati fatti. Erano rimasti soltanto alcuni lavori, non è che non tutti sono stati fatti, soltanto alcuni lavori che Ilva a suo tempo ritenne non fattibili tecnicamente. Adesso con un avanzamento, come dire, delle tecnologie e degli studi si possono trovare delle nuove soluzioni e quindi è stato approntato un nuovo piano. Però Ilva si è difesa e il Tribunale del Riesame oggi l'ha riconosciuto affermando che non è che non è stato fatto niente, è stato fatto un certo intervento, solo che andava completato ed è quello che appunto dovrà essere fatto adesso. Tornando appunto su quello che dicevi tu per quanto riguarda Maccagnano, è la seconda volta nel giro di 4 mesi che il Tribunale del Riesame ribalta il provvedimento dello stesso giudice sempre dall'Alto Forno 2, perché Maccagnano aveva negato a Ilva l'uso dell'impianto già a luglio scorso, l'impianto era stato già sequestrato senza uso a luglio scorso ed era avviato verso lo spegnimento. Poi a settembre il riesame accolse l'impugnazione di Ilva e, come dire, liberò l'impianto. Adesso la storia si ripete sullo stesso impianto e con la stessa dinamica. No del giudice Maccagnano, nonostante il sì della procura, e il riesame che alla fine accoglie. Sì, la cosa ricorso più singolare è questa che tu citavi, cioè che vi era stato anche un parere favorevole della procura a mantenere l'altoforno aperto, eppure Maccagnano ha ritenuto contrario. Anche qui non voglio fare la puntata sulla magistratura, però insomma, poi, una valutazione anche sull'attività dei magistrati prima o poi in questo paese bisogna farla, ma non voglio entrare sul tema adesso. Ultimo aspetto, le prospettive invece per la trattativa, perché ho visto che ArcelorMittal ha detto che dopo il tribunale del riesame adesso il rischio per gli operai dell'altofono 2 è assai ridotto, c'è grande soddisfazione da parte dei commissari dell'ILVA in amministrazione straordinaria. A questo punto le trattative con lo Stato avranno un percorso sicuramente più agevole, mettiamola così. Sicuramente la trattativa che dovrebbe cominciare in questi giorni, perché dopo il preaccordo del 20 dicembre si erano dati appuntamento a gennaio per mettere mano all'architettura della nuova ILVA, architettura che verrà appunto una presenza dello Stato ma anche un nuovo modo di produrre accanto al ciclo integrale del forno elettrico. Bene, questo percorso di negoziata avrà un, come dire, uno scenario meno complicato. È un problema in meno che ILVA e ArcelorMittal trovano sulla loro strada. Non tutto è risolto, le difficoltà, le divergenze sono tante, ma almeno un problema da oggi lo abbiamo tolto da mezzo. Allora, grazie anche Domenico Palmiotti in collegamento con noi da Taranto. Andiamo sul traffico e poi invece all'Italia. Oggi c'è stato un insieme di audizioni alla Camera. Da un lato il commissario Giuseppe Leogrande, che ha chiarito quanto aumentano le perdite, e poi anche interessante sia l'audizione del ministro Paolo Di Micheli che del rappresentante della Lufthansa. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Dunque all'Italia, partiamo dalle ultime audizioni, quella del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paolo De Micheli, che ha detto se servirà tempo lo valuterà il governo in audizione alla Camera su Alitalia. Il governo ha come prima preoccupazione il mantenimento dei livelli occupazionali. Poi sul ruolo delle ferrovie dello Stato, visto che è crollato l'impianto voluto a suo tempo dal precedente governo e dall'allora ministro Toninelli e in parte anche Di Maio, con la partecipazione come socio forte delle Ferrovie dello Stato, ricordato perché è mancato il partner fondamentale, allora che era Atlantia in quel caso, ha detto alcune cose possono essere comunque recuperate, per esempio il percorso dell'intermodalità, ha detto la De Micheli, però un'eventuale partecipazione delle Ferrovie dello Stato sarà valutata nel momento in cui vi saranno le nuove condizioni per partecipare ad un'eventuale cordata. Quindi al momento tutto resta congelato. E poi ha chiarito che il Ministero dei Trasporti sta lavorando con ENAV per diminuire le tariffe per i servizi di rotta e per i servizi di terminale di tutte le compagnie aeree, con una riduzione dell'Italia del 18%, o intorno a, in realtà al 15% sulle tariffe di rotta, e anche di riduzione del 15% per gli aeroporti di seconda fascia, quindi Linate, Malpensa, Bergamo e Venezia. Audizione, dicevo, anche però del commissario straordinario Leo Grande, che ha detto: attenzione, nel periodo di amministrazione straordinaria ha bruciato circa 300 milioni di euro l'anno e a breve arriverà un nuovo piano industriale. In questi giorni si sono lette tante cose sulle perdite prodotte dall'Italia. Ho letto anche varie contestazioni sul fatto che Alitalia abbia finora dato poca trasparenza sulle sue condizioni di redditività o comunque di risultato economico. Diciamo innanzitutto che le società che sono poste in amministrazione straordinaria sono esonerate dal redigere il bilancio nel senso tecnico previsto. Quindi questo, diciamo, è un punto che è una contestazione che è coperta da una previsione normativa, giusto o sbagliato che sia, però è così. Quindi le società in amministrazione straordinaria redigono le relazioni trimestrali o semestrali a seconda che l'esercizio di impresa sia ancora in corso o meno. In questo caso, non essendo ancora stato completato il programma di cessione, ovviamente i commissari hanno provveduto alla redazione delle relazioni trimestrali. In sostanza, quello che rileva per una società in amministrazione straordinaria è capire se l'esercizio provvisorio produce o brucia cassa. Evidentemente è ovvio che l'Italia la bruci la cassa. Se dobbiamo guardare quelle che sono le risultanze aziendali, possiamo dire che Alitalia ha bruciato in questo periodo di amministrazione circa 300 milioni all'anno. All'anno, si sentiva poco, all'anno. Quindi un po' meno del milione di euro stimato, adesso non dovrei fare il calcolo, sono sugli 800.000 euro al giorno, che non è sempre poco. Ma sentiamo anche, intanto ringrazio perché ci ha raggiunto in collegamento Gianni Dragoni del Sole 24 Ore. Gianni, buonasera. Buonasera, Sebastiano. Che oggi sul Sole 24 Ore ricordi anche le perdite però dell'Italia nei primi 9 mesi sono state pari a quelle dell'intero 2018. Tu hai avuto visione di dati riservati, con un peggioramento di circa 100 milioni nei conti e una perdita netta di circa 600 milioni. Tra l'altro, appunto, c'è un peggioramento complessivo, però ascoltiamo cosa ha detto anche Lufthansa attraverso il presidente numero uno di Air Dolomiti, che ha la responsabilità del dossier all'Italia per Lufthansa. Lui si chiama Jörg Eberhardt, ha detto sostanzialmente che dal loro punto di vista per un rilancio dell'Italia è più vantaggioso una partnership commerciale che non un investimento una tantum. Poi ha aggiunto: insieme faremo il sistema più forte in Europa con Lufthansa e Air Dolomiti. E poi ha detto che nonostante le difficoltà di Alitalia la qualità operativa è elevata e ha definito Roma Fiumicino un'infrastruttura ideale per mantenere e sviluppare l'hub di Roma. Quanto agli esuberi, ha detto, insomma, se tutto un insieme di misure non dovessero bastare si potrebbe pensare a un ridimensionamento dell'azienda, ma non fine a se stesso, bisognerebbe ridurre le tratte, la flotta e come ultima ratio il personale navigante. Alla fine, se tutte queste misure non bastano nel caso di Alitalia, chi lo sa, se alla fine fa sempre perdita, si deve anche pensare ad un ridimensionamento, ma non è un fine per se stesso, non è la riduzione delle macchie, delle tratte, la cancellazione delle tratte che non sono di utile, che poi la riduzione della flotta implica anche la riduzione del personale navigante, è solo l'ultima ratio. Non è un fine per sé ridurre il personale, poi si risana l'azienda. Si deve provare tutto prima, perché il vero potenziale dell'azienda è il personale, sono le tratte e l'infrastruttura di questa azienda. Quindi questa è la cosa che si fa per ultimo. Beh, interessante anche sentire dire, appunto, non è che si, per risanare l'azienda si taglia il personale, è l'ultima ratio, anche perché quello è un elemento anche di qualità. Chi mi chiede quanti soldi ha l'Italia? Beh, ha ottenuto un nuovo prestito ponte da 400 milioni che le garantisce continuità operativa fino al 31 maggio. Gianni Dragoni, che idea ti sei fatta tutte le varie audizioni, oltre a quello che hai scritto su un 2019 che è peggiorato per i conti di Alitalia? A me sembra che Lufthansa resti sulla sua posizione, cioè va bene un accordo commerciale, ma entrare nel capitale dell'Italia, se non è risanata, non se ne fa nulla. E la De Micheli dica, insomma, adesso vedremo se vi sarà una nuova accordata e se a quel punto parteciperanno anche le Ferrovie dello Stato. Lufthansa in effetti non ha spiegato, e ha fatto forse anche, diciamo, un certo impatto, un certo effetto sentire in un'aula parlamentare un gruppo, il rappresentante di un gruppo così importante, mondiale, che è una rarità anche, no, che ci siano audizioni di questo tipo. Ha spiegato la loro posizione in modo, direi, insomma, direi pacato, ma anche quasi, dobbiamo dire, terrificante dalle conseguenze, perché si capisce che l'analisi è quella corretta di una riguardo un'azienda che è, diciamo, non si, certamente l'obiettivo non è quello di fare i tagli, ma senza dei tagli è difficile pensare che l'azienda si possa risanare, anche se ci sono altre cose, altri risparmi che si possono fare senza tagli, per esempio i contratti di acquisto, di leasing, eccetera. Questo ha detto anche il rappresentante Eberhard. Per quanto al commissario, nuovo commissario Leo Grande, secondo me lui ha le idee già abbastanza chiare, però si è un po' trincerato dietro il fatto di essere stato appena nominato, per non dire quello che sembra un po' evidente a tutti, cioè che entro il 31 di maggio, termine fissato dal decreto legge che dà questi ulteriori 400 milioni all'Italia, è molto difficile, direi, io credo impossibile che si possa arrivare a una vera vendita, perché uno dei possibili pretendenti di Lufthansa, che poi aveva avuto un certo appoggio di alcuni esponenti almeno di questo governo, ha detto chiaramente oggi in pubblico qual è la sua posizione, quindi non sarebbe certo un compratore, ma potrebbe fare un accordo commerciale nel breve. Allora cosa succede se non si arriva alla vendita il 21 maggio? L'avvocato Leo Grande ha indicato una strada che aveva già che ha già applicato nella precedente esperienza di Blu Panorama, la piccola compagnia, un decimo di Alitalia, forse meno, di cui lui è stato commissario, e cioè o si vende oppure si crea una cosiddetta newco, cioè si fa una nuova società, è un po' buffo, perché che poi però ha venduta, cioè, quindi è un modo forse di guadagnare tempo, però io credo che sia questa. Gianni, in estrema sintesi, perché ho un minuto scarso, ma i motivi per cui è peggiorato il conto economico, come tu scrivi oggi su Sole 24 Ore, avendo avuto accesso a dati riservati, qual è, se dovessi dare il titolo? Dati riservati che quindi smentiscono Leo Grande quando dice che i dati non ci sono, invece no. I dati ci sono ma rimangono coperti. Ma io credo che di fronte a una gestione commissariale non può essere agile in un mercato competitivo del trasporto aereo in cui le low cost aumentano la quota di mercato, le compagnie tradizionali fanno più efficienza, sono più marketing, cioè l'Alitalia non è gestita purtroppo da dirigenti, è un po' ingessata comunque, non una gestione commissariale, indipendentemente dai demeriti precedenti, e quindi una gestione commissariale tende a gestire l'ordinario, dici tu, a quindi secondo me è questo un po', tant'è cioè, se che si protrae oggi, a lungo, poi oggi perde più di quanto perdeva quando è stata commissariata. E quindi, diciamo, un conto, anche perché la gestione commissariale di solito per sua natura ha dei tempi abbastanza brevi, appunto gestisci l'ordinario in attesa della soluzione. Se diventa una diciamo gestione straordinaria ordinaria, è chiaro che poi non hai la stessa iniziativa né la visione né anche i piani strategici, ammesso che poi possano funzionare, che ha una gestione invece ordinaria. Allora staremo a vedere, adesso vediamo che cosa succederà. Grazie intanto anche a Gianni Dragoni, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata.